Mangia come parli, mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Buongiorno e buon anno, chef. Buon 2020. Buon anno, Pier. Allora, ripartiamo con una nuova puntata del Meglio di Mangia Come Parli. Dopo le grandi mangiate di questi giorni, mi darei ai buoni propositi per il nuovo anno, tipo fare attività fisica. E per trovare l'ispirazione, io vorrei sentire il mio amico, allenatore, collega, commentatore su DAZN, Francesco Guidolin, che è soprattutto, mi verrebbe da dire, un grande appassionato di ciclismo. E noi l'abbiamo chiamato proprio durante una delle sue uscite in bicicletta. Mangia Come Parli. Come stai, mister? Come stai? Ciao, buongiorno, ciao, mister. Buongiorno, Davide, buongiorno. Non bisogna bene, chiamarlo mister. Bene, sono dentro al Montello, che è una delle zone più belle del Veneto, collinare, dove ci sono dei funghi meravigliosi. Vicino al Montello con la mia bicicletta. Mi sono fermato per parlare con te, poi riprenderò il mio giro. Che spettacolo. Quanti chilometri fai al giorno in bici, mister? Non tutti i giorni, ma oggi ho in programma una novantina. Sì. 50, 70, dipende. Quanti grammi di carboidrato si possono mangiare dopo 90 chilometri di bici, Oldani? Prima, anche durante, per me, insomma, se fosse possibile. No, il dopo non lo so, io non voglio dare quello che sono notizie magari un po' rischiose, però io faccio il pieno prima col carboidrato e poi lascio un po' correre dopo alla fine. Vero mister? Sì, anche se si mangia subito dopo lo sforzo, ammesso che sia prolungato, subito degli zuccheri è importante, perché in quel momento si ripristina proprio il livello degli zuccheri subito dopo finita la competizione, la gara, la corsa, la passeggiata, quello che è. Francesco ha un fisico... Oppure un po' di pasta, qualcosa del genere. Esatto, Francesco ha un fisico pazzesco, poi insomma, tu hai un passato da calciatore, poi da allenatore, sei abituato a frequentare gli sportivi, quindi tipo me, ovviamente, insomma, più o meno abbiamo lo stesso fisico. E oggi siamo in Veneto, tu sai, insomma, sei di Castelfranco, hai girato l'Italia e poi hai girato anche il mondo, perché hai avuto un'esperienza in Premier League, ma il tuo piatto del cuore qual è? C'è un piatto veneto che ti sta nel cuore? Allora, mi piace il baccalà alla vicentina. Ah, molto bene. Perché mi ricorda la mia famiglia, i miei genitori erano commercianti, avevano una gastronomia e facevano questo piatto, questa pietanza, veramente molto bene. E forse il piatto che mi piace di più della nostra terra, che è diverso dal baccalà mantecato, che è più veneziano. Il baccalà alla vicentina mi piace tanto. Com'è il baccalà alla vicentina? Allora, ho la mia Fingo versione di non sapere, però col, io sono il baccalà non il ragno, naturalmente lo stoccafisso. Cosa utilizzavate o cosa utilizza lei adesso quando lo fa, mister? Quello che viene dalla Norvegia, almeno mi ricordo che mio padre mi diceva così, il baccalà, quello grande, quello lungo, il ragno, il vero ragno. Una il roba vero del ragno genere. È vero per il mantecato, che è quello secco totale che devi rigenerare. Poi c'è anche il filetto di stoccafisso, adesso in più modi ma lo chiamano. Ma la vicentina, che teniamo per la vicentina? La preparazione? Alla vicentina è una base di olio, di cipolla, poi i pezzi, tranci di pesce all'interno e vengono ben cotti. Adesso è anche di moda. Anche quello dissalato, no? Si utilizza quello grande filetto dissalato, poi tagliato a tranci. Può darsi, chef. Io conosco il baccalà mantecato, mi piacciono entrambi. Mi piace la trippa come secondo piatto, mi piace il fegato alla veneziana, insomma, piatti un pochino anche pesantini, ma ci sta. Della nostra terra. Noi mangiamo, Francesco, lui cucina, noi mangiamo, questo è poi il concetto. Potevi allenare in Portogallo, devo dire, perché insomma sai che lì è la patria del baccalà cucinato in 365 modi diversi, questo amico fedele che i portoghesi ogni giorno potrebbero declinare in una maniera diversa, in modi, devo dire, anche abbastanza bizzarri. Non è mai troppo tardi, Pier, non è mai troppo tardi. Ah, ci stai dando una notizia, no, però non sarebbe male. Guarda, se vai in Portogallo vengo con te, vengo a farti da ufficio stampa. Grazie anche a me il Portogallo. E invece scusami, ma tu cucini? No, non sono capace. Chiamiamo le cose con il loro nome. Io riesco a farmi una pasta quando sono solo in casa, che appunto magari voglio uscire per andare in bici, riesco a fare due tagliatelle all'olio, così, con un po' di peperoncino, un po' di grana. Girando per allenare le varie squadre in Italia, insomma, tutte queste esperienze che si fanno, sono collegate anche a una curiosità verso la cucina oppure strettamente al solo... Al vino, sì, la gastronomia. Devo dire che sono stato 4 anni in Sicilia e credo che la regione dove si mangia meglio sia, almeno sul piano della molteplicità dei piatti, sia la Sicilia, perché tra pesce, anche la carne, le verdure, la frutta, i dolci, il gelato e anche il bere negli ultimi anni, secondo me la Sicilia è meravigliosa. Io mi ricordo, spettacolare. Sai, quando sei tra i bravi telecronisti che preparano le partite, mi ricordo un'intervista tua di un po' di anni fa, quando appunto allenavi il Palermo, in cui raccontavi di essere stato piacevolmente sorpreso dai vini bianchi siciliani. Però insomma, ti hanno colpito, ti piace girare, che vini ti piacciono? Allora, a me il bianco piace poco, anche se noi viviamo nella terra del Prosecco e un bicchiere di Prosecco lo bevo volentieri. Mi piacciono di più i vini rossi e sarei più per i nostri vini, il Cabernet, il Merlot, e di Friulano mi piace invece di rosso il Refosco dal peduncolo rosso, però non sono un grande bevitore, ma mi piace bere un buon bicchiere di vino, magari poco ma buono. Attenzione che un Merlot altrettanto interessante c'è anche in Sicilia, per cui l'enologia italiana da nord a sud negli ultimi credo 15 anni abbia preso veramente piede, e quindi sia al sud che al nord possiamo trovare dei grandi vini bianchi o dei grandi vini rossi. Assolutamente, ed è la cosa che cerca Francesco quando va a allenare. Anche bollicine, anche se si può dire. Quello che lui cerca quando va a allenare essenzialmente sono delle salite, per esempio allenato a Palermo perché c'era il Monte Pellegrino. Com'era sto Monte Pellegrino da scalare con la bici? Com'è? Facile. Ah. Allora ero giovane, avevo 45 anni, non ricordo, tra i 45 e i 50 anni sono stato a Palermo. Quindi era una passeggiata di salute per me scalare il Monte Pellegrino. Adesso sarebbe un po' più dura. La salita più difficile qual è? Nella tua... Allora, la salita più difficile è in Friuli, precisamente in Carnia, e si chiama, è dello, non so se tu hai mai sentito nominare, perché si tratta di vini, so che sei esperto, ma di salite non lo so. Lo Zoncolan è la salita più dura che io abbia mai fatto. Certo. Però sei arrivato in cima, no? Sì, certo, tranquillamente, e anche a un buon ritmo. Ecco, l'importante è quello, l'importante è il buon ritmo a tenere. Con la bici e la pedalata assistita, con la bici elettrica. No, tra l'altro. Mister, cosa pensa della pedalata? Posso seguirti con la miraglia, tranquillamente. Come no. La pedalata assistita, io sono di quei vecchi ciclisti che... No, pedalata assistita. Ed è una bella opzione, però insomma, finché si tiene botta di fisico è meglio andare con le proprie gambe. Poi, concordo. Non è detto che fra qualche... Anzi, ce l'ho anch'io nei miei piani, se avrò la fortuna di star bene, di farmi aiutare un pochino, ma non adesso, magari, se possibile. Grazie, buon giro in bici. Buon lavoro a voi, ragazzi. Ciao, Francesco. Mister. Mito Francesco Iorino, una persona che ho scoperto in questo anno con DAZN, una persona fantastica, proprio anche nel rapporto umano, nella serie. Vabbè, niente, se no poi diventa tutto... Molto serio. Se no diventa tutto zuccheroso come il Moscovado. Invece abbiamo con noi Roberta Schira, ciao, giornalista, critica gastronomica, ciao. Docente dell'Italian Food Academy. Come va l'Italian Food Academy? Come va l'Accademia del Cibo d'Italia? Buongiorno Roberta. Cosa ci dici del tuo ultimo libro, visto che insomma si parla di frattaglie? Grazie, ma non si parla solo di più, in realtà si muove onnivori, è un commensale che mangia di tutto, veramente di tutto. E sai, adesso in questi giorni mi stanno dicendo: ma come tu, questo libro parla di sostenibilità, parla di ambientalismo, parla di clima, parla di cose che bisogna mangiare, sembra proprio uscito apposta, ma in realtà io l'ho pensato 3 anni fa, no? E tu sai bene, Davide, che i chef, i ristoratori, i cuochi attenti già sapevano che sarebbe arrivato questo momento, no? Di decidere anche prima di mettere in tavola il buono da mangiare, è importante mettere in tavola qualcosa di buono da pensare, no? Prima, quindi non voglio usare etico sostenibile perché non ne possiamo più, è vero, di queste due parole, però purtroppo non abbiamo ancora trovato nulla, nessun sinonimo Certo. Significare questa nuova ondata, attenzione, questa nuova attenzione, ecco, questa nuova attenzione, sì, così esatto. Come il cambiamento climatico, al di là di tutte le valutazioni politiche, esatto, tutti i dibattiti, esatto, anche di qualche polemica, bravo, di troppo su Greta, è un tema che riguarda tutto, riguarda l'economia, riguarda per esempio ultimamente, certo, insomma, ho la fortuna di aver conosciuto anche degli architetti importanti, il tema del cambiamento climatico in urbanistica è un tema fondamentale, perché è un tema realmente che cambia la dimensione e la concezione delle città e lo spostamento, la migrazione, gli aspetti sociali. Vabbè, il discorso è troppo lungo, torniamo un po' profani. Il Veneto, oggi noi siamo in Veneto, che hai una passione o una cosa magari meno conosciuta della cucina veneta che ci vuoi segnalare? Beh, non so, per dirti questa cosa del fegato alla veneta, però è troppo banale, è troppo una cosa troppo scontata. Poi magari lo miscelo col mio modo di fare il fegato alla veneta, puoi farlo. Restiamo nella frattaglia, siamo perfettamente coerenti. Volevo solo concludere prima che il nuovo commensale, il nuovo onnivoro non sceglie solo il filetto, sceglie della carne, meno carne, della carne di buona qualità, e quindi sa anche scegliere dei tagli meno nobili. Ecco perché vedi che tutto rientra, no? Il discorso dell'ambiente, il discorso costo dell'eticità, dell'attenzione e anche del meno spreco, no? Certo. Quindi vedi che è perfettamente coerente. Il famoso riordino, no? Sì, certo, che bravi che citate anche i miei libri. Ma siete preparatissimi. Ma io sono, sì. Siamo al mestiere, eh? Assolutamente. Non solo io. Pur non essendo frattaglista, fra l'altro un romano non frattaglista è una specie di bestemmia, lo so. Lo so, ogni tanto mia mamma, che è una grande ascoltatrice di questo programma, mi rivendica invece il suo amore per la trippa, per tutte le frattaglie, insomma, sai che sono parte. Sì, poi a Roma, insomma, sono proprio parte della tradizione, cioè sono quasi un atto di devozione, no? Nei confronti della romanità, però. La frattaglia è donna o uomo? Cos'è? Roberta, spiegaci un po'. Donna. Secondo me è donna. Però sai, la gente non sa in realtà che sono veramente tanti tipi di frattaglie, quindi c'è proprio questa parola che secondo me... Cioè io sono anche un po' psicologa, sai, che fa venire subito col senso un po' di distacco e di un po' di disgusto. Perché in realtà poi se tu fai un meraviglioso fegato, come poi come parla, una grande animella, in realtà non ha niente a che vedere con la trippa, eppure sono tutte frattaglie. Quindi sono frattaglie nobili ed altre frattaglie un po' più working class. Diciamo. Però sai, l'aspetto della percezione, no? L'aspetto della consistenza, l'aspetto di sapere quello che stai mangiando, insomma non è proprio secondario, no? Ma c'è mentale, una ma soprattutto mentale. Sai che nella grande cucina internazionale francese la riz de veau, cioè l'animella, è uno di quegli ingredienti veramente nobili, di alto spessore, per cui noi in Italia ne usiamo degli altri, come può essere il fegato, come può essere la cervella, no? Che naturalmente in tante ricette della cucina italiana ci sono. Devo dire che confermo questa cosa sul fatto delle donne, perché quando capita nel mio ristorante è forse più la donna che chiede di assaggiare la frattaglia che l'uomo, quindi questo mi fa molto piacere. Perché l'uomo è più schifiltoso, è meno coraggioso. Ragazzi, ma la superiorità delle donne sugli uomini è stabilita, cioè non è che ci vuole adesso qua, non dobbiamo dirlo noi, è evidente, mi pare chiaro. Tu sai che c'è una correlazione, no? Tra l'apertura mentale, e non l'ho inventato io, no? Cioè, ho studiato un po' di sociologi, l'apertura mentale e anche la curiosità di assaggiare tutto. Cioè, più le persone sono aperte mentalmente, più non hanno paura di assaggiare sapori nuovi. Sembra una cosa banale, ma ti assicuro che è veramente... io lo verifico, no? Con il mio lavoro, girando nei ristoranti. Cioè, più sei chiuso mentalmente, più la cucina dell'altro, con la maiuscola, ti sembra... Ma ragazzi, è la cosa più logica del mondo, perché il cibo diventa parte di noi, quindi nel momento nel quale noi decidiamo di assaggiare qualcosa che magari in quel momento ci fa paura o non ci ispira al 100% o non ci fidiamo, è una forma, diciamo, di coraggiosa accettazione di qualcosa di diverso, no? Quindi è sicuramente così, insomma, è sicuramente parte dell'apertura mentale. Apertura mentale e apertura di stomaco è anche molto importante, no? Soprattutto. Qual è la parte importante per te del fegato alla veneta, e poi io darò la mia ricetta subito in coda. Infatti, grazie, non volevo dare nessuna ricetta, ma solo io da critico gastronomico che cosa noto? Qual è l'unica vera difficoltà del fegato? La cottura, cioè che basta tagliare di qualche secondo, come diceva grande Gualtiero, in cucina un secondo è un'eternità e un grammo è una tonnellata, e così qualche secondo in più ti trasforma una succulenta fettina di fegato in qualcosa di in una sola di scarpa. Quindi io dico solo questo: attenzione. Veramente al punto di rosa. Attenzione a non sbagliare, e noi non sbaglieremo. Grazie Roberta. Grazie. Mangia come parli. Allora, devo dire che il consiglio di Roberta è naturalmente la cosa più importante. Attenzione alla cottura. È davvero così difficile la cottura del fegato? È chiaro, sì, deve essere rosa per essere morbido e per non essere Ce la giochiamo sul filo dei secondi, quasi. Allora, girando il mondo devo raccontare che un po' di esperienza l'ho fatta, per cui ho attinto ad alcune cose e le ho riportate nella tecnica della cucina italiana. Questo per dirti cosa? Che il fegato alla veneta, la mia versione, è quella fatta a modi shabu shabu, dal Giappone, shabu, certo. Ok? Shabu, vuol dire, tradotto in italiano, vuol dire sciacqua sciacqua. Certo. Vuol dire una pentola con un po' di brodo caldo, brodo di vitello, brodo di galliano, qualsiasi brodo, però tiepido. Delle fettine molto sottili di fegato, tagliate dal macellaio, probabilmente, possibilmente. E cosa facciamo? Abbiamo questa fonte di calore, questo brodo che bolle leggermente, noi con un chopstick o con una forchetta passiamo leggermente le fette. Con chopstick. Facciamo anche la forchetta. Con la PlayStation, no, anche no. Però con una pinza o con una forchetta possiamo passarle leggermente in questo brodo caldo, proprio dentro e fuori, sciacqua sciacqua, come dicono i giapponesi, E poi cos'altro fare? Preparare una cosa un po' più semplice, separatamente, una cipolla bianca tagliata molto sottile, sbianchita con un po' di acqua bollente e salata, quindi scolata, e poi rosolata con una noce di burro, un po' di marsala o altrimenti un po' di aceto balsamico all'interno di questa cipolla, la facciamo cuocere, stufare per una ventina di minuti fino a che non si appassisca totalmente, poi leviamo dal fuoco, appena appena un po' di sale, se si dovesse avere anche un goccio di sugo di vitello andrebbe anche bene, e cosa facciamo? Adagiamo questa marmellata, questa composta di cipolla nei piatti, nelle fondine, e poi sopra piano piano, uno per volta, questi pezzettini di fegato sciacquati nel loro brodo. Perché è così importante che le cipolle vengano cotte separatamente? Ma perché anzitutto la cipolla ha una cottura di mezz'ora, 20 minuti, cioè, mezz'ora, 40 minuti, quindi e quando dobbiamo... abbiamo detto che il fegato debba essere cotto in 3, 4, 5 secondi, certo, a seconda dello spessore, per cui le due cose vanno scisse. E questo era il metodo della famosa Nouvelle Cuisine anni 70. Non spiegata bene all'inizio, ma compresa molto bene dagli allievi, dai ragazzi, dalle persone che come me hanno iniziato 30 anni fa più o meno. Bene, abbiamo un'altra leggenda, Giancarlo Perbellini, chef 2 stelle Michelin, grande imprenditore nell'ambito della ristorazione, nato fra l'altro a Bovolone, provincia di Verona, giusto Giancarlo? Sì, buongiorno. Giancarlo, ciao, buongiorno, benvenuto tra di noi, tra due pazzi. Tra due pazzi, sì, siamo in Veneto oggi, quindi siamo a casa tua, anche se poi tu hai lavorato in tutto il mondo, insomma. Ma che cos'è tipo le Madeleine di Proust? Che cos'è che ti rimane della cucina veneta, che ogni tanto ti fa venire l'acquolina, ti fa ripensare magari all'infanzia? C'è qualcosa? La cosa principale è perché è un ricordo di tutte le domeniche, che è il risotto pasta sal, che è un risotto tipico della zona di Bovolone, della bassa veronese, ed è fatto con la pasta del salame. Pasta sal perché dicevano che si assaggiava il sale prima di insaccarlo. Poi era tutta una scusa perché mettevano pure parmigiano ed era solamente una cosa per far festa. Però è uno dei risotti tipici e io sono nato e vissuto con questo risotto. Però in Veneto il piatto che mi fa impazzire di più, ma perché è sempre stato un po' il mio tallone d'Achille, è la sopa coada. Cosa? La sopa coada. La sopa coada. Che non è la pigna colada, no? È la sopa coada, ok. Cos'è? È un piatto trevisano fatto col piccione, è un primo piatto. E secondo me, se fatto bene, è uno dei piatti più buoni della cucina tradizionale veneta. Sopa coada. Sì, Giancarlo è un grande. Giancarlo, quanti ristoranti hai adesso? Scusami, è la domanda, perché ogni sei mesi ne apri uno. Sono 6 di una pasticceria, 5 a Verona, 1 a Milano, il bistrò di Moscova e poi la pasticceria Dolce Locanda. Ma io sta sopa coada dov'è che la posso mangiare? A Verona? Bisogna mangiarla, no, a Treviso. A Treviso. Io ho tirato fuori un piatto di un'altra provincia, ma secondo me è un piatto straordinario, perché il piccione viene stufato in forno con le verdure, poi viene disossato e poi viene fatto, al posto di usare la pasta, un pasticcio col pane vecchio, e con tutte le carcasse del piccione viene fatto il brodo. Per cui si monta a strati il piccione e il pane vecchio, poi una volta che il brodo di piccione è pronto viene bagnato con questo brodo di piccione, viene messo un po' di grana padano sulla superficie e poi si cuoce in forno. Una volta che è cotto si serve a pseudo blocchi con un mestolo di brodo ancora. Ed è una cosa straordinaria. Fantastico. Arriva dalla Lorenzo tradizione. Giovanotti, a Lorenzo Cherubini gliel'hai fatto assaggiare? O soltanto la meringata? Ho visto no, che hai fatto. Lui mangia meringhe, Tu hai fatto questa mega. O sbaglio, questa mega torta per il concerto di Linate, poi sei stato anche a Rimini, avete un grande rapporto. Sì, assolutamente. Abbiamo portato un sacco di meringhe, perché comunque il finale era la meringata e le meringhe. Poi Lorenzo sta sul palco di 12 ore, c'ha un'energia incredibile. Quindi, sono rimasto. Essere fatto, lo so. Ha un'energia incredibile. E il merito sono le meringhe. Secondo me anche la sopa coada. Abbiamo una forma di doping. La sopa coada mi piace. Riprende un po' quella sarda di fatta con la pecora, dove hai il pane carasau. C'è anche in Sardegna una cosa che gli assomiglia. Sì. Fatta con la pecora, chiaro. Senti, Giancarlo, allora grazie per la tua ricetta. E ci vediamo naturalmente presto. Mangia come parli. Facciamo una breve pausa, ma rimanete con noi perché tra poco arriverà Antonio Di Pietro. Mangia come parli. Proseguiamo questo saluto al 2020 con un salto in Molise, dove troviamo uno dei protagonisti della storia degli ultimi anni di questo paese, che è Antonio Di Pietro. Andiamo a sentire cosa ci ha detto sulla nuova attività. Mangia come parli. Non di questi ultimi anni, del tempo che fu, perché ormai il tempo ne è passato. È un buon segno. Ho fatto un errore grosso nella mia vita, ho arrestato tante persone, bastava che arrestassi il tempo che passa. Quello il tempo è inarrestabile. È la medicina per tutti, anche per la cucina, il tempo. Assolutamente. Allora, Antonio Di Pietro ha un lato B che in pochi conoscono, che è una passione, non soltanto una passione per l'enogastronomia come quella che ho io, insomma, da gourmet, da appassionato, ma anche la persona che produce. Che fa esattamente Antonio Di Pietro? Solo per me e gli amici miei, quindi non sono un venditore, sono solo un produttore in una piccola azienda agricola che mi ha lasciato mio padre, e produco quel che faceva mio padre: un po' di vino, un po' d'olio, un po' di grano, un po' d'avena, un po' di verdura, un po' di orto, la domanda... un po', insomma, il contadino c'ha questa caratteristica che non si arricchisce mai, ma non muore mai di fame. Perfetto, ma la domanda spontanea: col grano cosa ci facciamo? Adesso con l'olio, olive, l'olio, il vino, l'uva, però il grano cosa fa? Beh, no, a parte il fatto che il grano, voglio dire, chiaro che io lo devo vendere, lo so che ci faccia, però nel mulino, il grano, portandolo al mulino, ci fai la tua farina, quindi è tutta un'altra cosa. Senti, ma la terra è uguale per tutti, per Antonio Di Pietro, che cosa vuol dire? C'è una videorubrica su questo, però mi piace, è suggestiva questa idea, no? Perché la terra è questo... La terra è due cose che caratterizzano il contadino: la terra è il giorno e le stelle la sera, perché dalla campagna c'è questo di bello, che ti accorgi, segui le stelle, quando arrivano le stelle vuol dire che hai smesso di lavorare, quando vanno via le stelle devi ricominciare. Questo è il segno del tempo, come i marinai come che si orientano. Come sono le stagioni adesso? Negli ultimi 10 anni, non è una frase fatta, ma sono cambiate molto. No, non è una frase fatta, il problema è proprio questo, sai? È proprio questo, che non ha più quel ciclo normale, per cui, per esempio, faccio l'esempio di quest'anno, dalle mie parti quest'anno non è piovuto per tanto tempo, il periodo di agosto, a cavallo tra agosto e settembre, per cui l'ulivo, che doveva diciamo così diventare più corposo, non ce l'ha fatta ed è rimasto piccolo. Il risultato qual è? Che su un albero di ulivo, che mediamente ci fanno almeno 30 kg di olive, io ne ho fatti 12 kg di olive, ecco. Ma 12 kg, questi 12 kg? La bontà non cambia, però la quantità, se il contadino ci deve campare... Certo, cambiano un po' le cose. Però la qualità aumenta in questo caso. La qualità, ripeto, te la devi cercare tu, contadino. Se fai il contadino serio, allora la qualità è sempre ottima. Allora, la ventricina, che cos'è? Lo diciamo a quei pochi che non lo sapesse. Cos'è la ventricina? E soprattutto, insomma, è una delle produzioni di Casa Di Pietro, no? Direttamente dal territorio di Montenero? Signor, sì, la ventricina è un tipo di salame tipico, fatto proprio con la, diciamo così, con la pancia piuttosto che con lo stomaco del maiale, tutta ripulita e ordinata, e dentro ci vanno a tocchi, a pezzi di carne, non tutta magra, ci deve stare anche un po' di quella ventresca che dà la possibilità, e soprattutto il peperoncino, perché il peperoncino anche un po' piccantino ci vuole, perché la ventricina è un tipico, diciamo così, salume che si mangia con il pane e con il vino. Il contadino, quando va a lavorare, una fettina di quello lì ti tira un po' su. Sostanziosa, diciamo. Ecco, sì, sostanziosa, certamente, per chi deve fare, insomma, voglio dire, va bene una volta ogni tanto per chi deve mantenere la linea, altrimenti basta lavorare, la linea ce l'hai. Sì, c'è. Assolutamente. No, devo dire che leggendo in una recente intervista al Corriere, fisicamente proprio, insomma, il rapporto con la terra, con l'allevamento, col maiale, no? Col fatto anche di doverlo uccidere, immagino che, insomma, non sia un'esperienza semplicissima, soprattutto all'inizio, però evidentemente forma la vita, no? Al senso del tempo, al senso della storia. Io lo dico sempre a mia figlia mi guarda sempre male quando dico: vabbè, domani mangiamo il pollo. Lei gli dispiace molto, però la fettina se la mangia, ma per avere la fettina a tavola in qualche modo ce la devi, certo, mettere. Quindi non c'è dubbio. Quel pollo, io rispetto molto gli animali, anzi, io ritengo che l'animale deve essere lasciato libero, deve fare la sua vita, certo, libera, eccetera. Però ha una sua funzione, il cane fa la guardia e il pollo fa la fettina. Beh, da questo punto di vista, insomma, io credo che ci sia oggi una maggiore consapevolezza, no? La differenza fra gli allevamenti intensivi e gli allevamenti, giusto, che non sono intensivi. Cioè, cioè, è un tema etico, è un tema ovviamente anche di salute, di sanità, estremamente anche importante. Ma torno a ripetere, io le faccio un esempio, adesso, parlando proprio in generale, no? C'è qualcosa che non va. Se la nostra salute, è vero che si trovano tanti rimedi che prima non c'erano, però tante malattie o tante guai prima non avvenivano perché c'era appunto un mangiare naturale. Le faccio un esempio. Io in un ettaro di terra in un anno ci faccio massimo 35-40 quintali di grano. Okay. Se lei va in Canada piuttosto che in Australia, con un ettaro di terra ci fanno 600 quintali di grano. L'ettaro è sempre 15 quello, volte tanto. Come cavolo fa? E come fanno? Che grano è questo? Bisognerebbe indagare. Serve un magistrato bravo. È chiaro che l'hanno drogato, no? Certo. Cioè, quando una persona si droga, cosa fa? Però poi alla fine si ammoscia. Io stavamo parlando di campagna. Quando vado a casa io cerco sempre di farmi fare due cose, che adesso solo mia sorella me lo può fare. Le melanzane ripiene al sugo, piuttosto che il pancotto con la pommata ora. Cosa? Perdoni di Pietro, no? Vorrei la ricetta del pancotto. Il pancotto con la? Con il pomodoro. Cioè il pomodoro, i normali pomodori, si mettono un po' a pulire, si fa il sugo e poi alla fine, perché questo lo faceva il contadino? Il contadino, mia madre pure, aveva il forno, faceva 8 pagnotte alla settimana, però durava 15 giorni perché spostava una pagnotta sì, una pagnotta no, il vicino di casa che lo faceva una volta a settimana per uno. Allora la pagnotta a un certo punto, al sesto giorno, al settimo giorno era duro. Certo. Come fai a mangiarla? Allora hanno inventato questo tipo di pasto, cioè il pane è al posto della pasta. Tu fai il sugo e invece di metterci i maccheroni ci metti il pane senza bisogno di farlo cuocere. Ok, beh, interessante questa soluzione. Poi noi, a dire la verità, insieme dicevamo al pomodoro, poi ci mettevamo un po' di ventricino, un po' di salsiccia, un piccantino. Ci si allargava un po', sarebbe... Cioè, invece la melanzana, sai che è la melanzana? La melanzana ripiene, questa ancora adesso, mia sorella, nonostante deve fare mille cose per muoversi, ogni volta che vado giù, ancora adesso, tra mia sorella e devo dire anche la mia consuocera, la mamma della moglie di mio figlio, sanno che io sono innamorato di questa melanzana. Che cos'è? Una melanzana viene svuotata, riempita, presa il suo, la parte di dentro, mischiato al formaggio, al pane, all'uovo sbattuto, al non parmigiano, perché noi abbiamo il pecorino. Messo anche lì un pezzettino di piccantino, un po' di aglio, ci vuole la cipolla, io non ce lo voglio, messo al sugo, come se ci fai il sugo per i maccheroni, alla fine viene questa melanzana, bella, piena, che ti fa da prima, da seconda, da frutta, e ti manda anche a dormire. bello felice. Beh, insomma, è una cucina verace di grande, devo dire, di grande gusto. Grandi prodotti, tanti prodotti, che naturalmente tradotti nella cucina moderna si possono valorizzare ancora. Patata lunga di San Biase, che poi dopo è una patata lunga di San Biase. Una patata con una pasta un po' più dolce rispetto a quella normale. La patata lunga? No, noi abbiamo patate piccoline normale. Patata normale piccola. Quindi, si sedani molisani, come li facciamo, Dani? Ma sedani li facciamo una cosa molto semplice. Anzitutto ci tengo a precisare che non è la forma della pasta dei sedani, ma è una tipologia di sedano diverso, un sedano un po' più verde perché è un po' più maturo, tagliato molto molto sottile, lasciato a mollo con un po' di acqua e ghiaccio per farlo riprendere, perché poi lo servirò come insalata, e lo servirò sopra a un baccalà che avrò dissalato più o meno 200 grammi per 4 persone, tagliato a tranci, dissalato totalmente per almeno 48 ore in acqua fredda, poi asciugato, tagliato a fette sottili, disposto su alcuni piatti, su 4 piatti piani, e poi condito con una citronette, un condimento fatto con olio extravergine di oliva, magari in questo caso molisano, con un succo di mandarino all'interno, un po' di sale, un poco di pepe, anzi sale grosso, e una macinata di pepe nero, per cui avremo questo letto di di baccalà fresco, poi il sedano scolato, quindi croccante, tutto praticamente quasi a crudo, e poi il condimento leggermente che sa a questo profumo di mandarino, compresa la buccia del mandarino. I sedani molisani normalmente sono cotti e stracotti, io direi, con il baccalà, quindi il trancio di baccalà, un soffritto iniziale, bello, poi il baccalà dentro, i sedani. E ho reputato che questa potesse essere una ricetta che magari da utilizzare nelle prossime giornate, che possa essere una ricetta delicata. Qual è il suo formato di pasta preferito, di Pietro? Dipende un po' dagli utilizzi. Io sto pensando a sentire raccontare tutto questo bel piatto, dico meno male che non sono una donna incinta, perché me la faccio venire a volte. Meglio così. Grazie ad Antonio Di Pietro. Grazie. In bocca al lupo per tutte le produzioni, galline, gallinacci. Però possiamo vino, chiedere olio. Una volta se passa da Milano un olio così lo vorrei assaggiare. Lo vorrei assaggiare. Assolutamente sì, molto molto molto. Che volentieri. Caratteristiche ha il suo olio, Di Pietro? Il mio in questo momento quello di quest'anno 0,03 di acidità. Quindi quasi perfetto, io le offro un piatto di riso, pane e marsala, e lei mi porta un po' di olio, lo condividiamo. Io vi faccio una telecronaca. Vi faccio una telecronaca, dai, l'economia del baratto. Grazie ad Antonio Di Pietro. grazie davvero, Antonio Di Pietro. Non conoscevo questo lato agricolo, bello, contadino. Mi piace tutto ciò che ha rapporto con la terra, mi piace particolarmente. C'è già Maddalena Fossati. Buongiorno Maddalena, come va? Buongiorno, ci sono e come? Ci sei. Maddalena, buongiorno. Qui ciao. Scopriamo delle cose incredibili. Che, per esempio, io non lo sapevo che Antonio Di Pietro ha un'attività proprio, insomma, di una certa importanza, soprattutto per la passione che ci mette per la terra, per la coltivazione, vino, olio, grano. Sono tanti gli italiani, Maddalena, che fanno queste cose. Un po' di tempo fa De Gregori mi raccontava di un suo progetto legato all'olio a spello, per esempio, in Umbria. Insomma, sono tanti gli italiani, anche Formigli ce lo raccontava. È un marchio del nostro paese, no? Ti posso dire che io stessa in famiglia anche noi facciamo olio d'oliva. Il mio figlio è stato svezzato durante una raccolta delle olive. È una cosa bellissima, fa benissimo all'umore, e poi l'olio fa bene alla vita, cioè. Io adoro l'olio d'oliva, per me è un ingrediente a sé stante. Vabbè, lo dico davanti a Davide, che, come dire, no, l'ho assaggiato l'ho assaggiato, molto buono. Purtroppo non ne posso avere di più perché la raccolta è piccola, è una cosa molto. Arriveremo mai ad avere la carta degli oli? Scusate, è una c'è, mia. No, c'è. Sì, io lo sogno. Sì. C'è, ma averla scusate su grandi numeri, cioè qualcuno la fa, la comincia a fare, però insomma è un sogno immaginare che in qualsiasi ristorante, o comunque in ristorante di un certo livello, ci sia sempre una carta degli oli. Allora, l'idea della carta degli oli, così come quella delle acque, è partita un po' di anni fa in tanti grandi ristoranti di amici, di conoscenti che ho, hanno la carta degli oli. La cosa che bisogna fare naturalmente con gli oli è prendere quell'attenzione di consumarlo fresco, perché con la bottiglia scura, se non lo si tratta bene, poi rancidisce, per cui perde valore anche il cibo su cui andiamo a mettere questo olio. Però in questi grandi ristoranti c'è la garanzia che l'olio sia di grandissima qualità, quindi piccoli produttori come magari Maddalena o altri che lo commercializzano e fanno poche quantità, vengono utilizzate poi da questi grandi colleghi e grandi chef. Sì, io non mi volevo vendere il mio olio, anche perché non c'è praticamente più, c'è bruciato pure l'uliveto, ma lasciamo perdere. Però quello che vi voglio dire è una cosa sull'olio, è che i parenti di mio marito hanno tutti più di 90 anni grazie a quest'olio, alcuni sono arrivati a 100, e molto importante, ma Davide lo confermerà, quando cuciniamo di non tenerlo troppo vicino ai fornelli, perché se lo scaldi raggidisce, cioè sì, se sì. Tu sei lì coi fuochi, col calore, è chiaro, l'attenzione, il famoso punto. Infatti bisogna usarli. Ci sono alcuni prodotti nella cucina. La settimana scorsa mi è capitata una persona che mi chiedesse: ho comprato il tartufo bianco per conservarlo 2 settimane, come faccio? Dico, è impossibile, cioè lo puoi fare se vuoi, ma se vuoi godere del prodotto lo devi consumare subito, per cui ci approvvigioniamo con poche cose. Non è un caso che il mercato del Giappone acquista l'olio in Italia con le bottigliette da 2,5 decilitri, quindi piccole, pronte all'utilizzo e a terminarle quando le bottiglie sono aperte. Guarda, questo è un tema, adesso lo riprendiamo, questo è un tema quasi filosofico, perché in una società dove noi oggi abbiamo tutto, ci possiamo collegare con qualsiasi parte del mondo, possiamo vedere qualsiasi cosa in qualsiasi momento, il cibo, e questa è la straordinaria forza del cibo, invece ha le sue regole, ci e le regole della stagionalità, ci riporta al ritmo della vita, alla stagionalità, al fatto che non si può avere sempre tutto, che il cibo, ci sono dei cibi che si deteriorano dopo poche ore, dopo pochi giorni, quindi esiste l'attimo. È cambiato da quando io ho iniziato oramai 30 e passa anni fa a cucinare, a vedere come tutti si proponevano, soprattutto nei grandi supermercati o per la fornitura alle famiglie, con prodotti che avessero tanto tempo di conservazione. Adesso abbiamo fatto un passettino indietro, abbiamo capito che la prima cosa da valorizzare è l'uomo, per cui c'è la rincorsa a quello dello shelf life, che chiamano, di 2, 3, 4 giorni, quindi prodotto fresco e consumato subito. Quanto è importante l'aspetto visivo, l'aspetto di presentazione, l'aspetto di coerenza poi con il prodotto? Quanto pesa? Devo dire che, guarda, tra l'altro la vostra rivista, da questo punto di vista, ha fatto passi da gigante enormi. Guarda, per me la bellezza è funzionale, nel senso che non è mai una questione di superficialità. Quando tu ti siedi a tavola e vedi la bellezza e voglia di stare a tavola, di godere di questa, di quello che vedi, no? Di chiacchierare con gli amici, per cui è sempre utile, non so come dire. Pier mi chiedeva, Marta, della patata lunga di San Biase, conosci qualcosa, hai delle idee, oppure posso andare io con la ricetta e poi ne parliamo? Io, se vuoi, ho cose, ma secondo me sei tu che devi dare la tua ricetta. Dai, diciamo, parti, non fare il timido, vai. Mettiamo anche questa musica. un jingle per che me. Che faccio? Dai. Prendo le patate, adesso la faccio, la voglio fare interattiva. Allora, che faccio? Prendo le patate. Dai, prova, vai a spanni un po'. Laverò le patate, le sbuccio, che devo fare? Le impasto con le olive. No, le sbucci prima, le cuoci, immagino, per impastare, certo, giusto? Che facciamo? Non le cuociamo. Andiamo per logica, una ricetta per logica. No, una purea di patate fatta con questa patata del territorio molisano, per cui cotta in forno, magari o sotto sale, oppure in un papiotti, in una carta stagnola oppure una carta da forno normale, quindi senza acqua. Le sbucciamo, le schiacciamo, le aggiungiamo. Aggiungiamo delle piccole olive o delle olive tagliate a piccoli cubetti, le condiamo con un po' di sale, un po' di pepe bianco per dare quel tocco di piccante, e poi componiamo delle piccole palline che facciamo riposare in frigorifero. Le togliamo dal frigorifero, le passiamo un po' nella farina, poi nel nostro uovo sbattuto, possibilmente magari anche più albume che tuorlo, possiamo fare. Okay. Poi dall'uovo le passiamo al pane, un pane grattugiato molto molto fine, e le lasciamo riposare ancora un po'. Poi le friggiamo, e naturalmente, Pier, la frittura che io faccio, io direi a 150 gradi con un olio di semi di girasole, quindi un olio che abbia un profumo neutro, che naturalmente non dobbiamo bruciare altrimenti farebbe male, però potrebbe questo dare una doratura perfetta, morbido all'interno. E quando facciamo i fritti, cosa facciamo di solito? Cosa serviamo noi? Una parte acida. Vedi, Madda, vedi che attenzione, bravo, attenzione. Al terzo anno, sì, c'è quindi abbiamo il contrasto. La parte acida come la facciamo? Beh, allora, con questa granita, no? Possiamo fare, comporre una granita con 1 decilitro di succo di limone filtrato, la buccia grattugiata all'interno, un po' di zucchero appena appena, giusto per addolcire, un goccino d'acqua appena appena, mettiamo in una, stendiamo su una placca, la facciamo congelare. E poi serviamo le nostre piccole palline con una grattugiata leggera di questa granita giusto a fianco, che dà la freschezza, dà l'acidità, per avere anche una digestione corretta col nostro piccolo fritto. Beh, mi sembra, bravo. Che dici? È che proprio dici? Bravo. È bravo sto ragazzo. E bravo, la cosa che mi piace, che vorrei condividere... Lo sto valorizzando, Maddalena, gli sto dando un po' di standing. Sì, siete veramente... Ormai siete una coppia perfetta. Esatto. Ecco, vedi, no, poi l'altra cosa sulla patata... L'altro mangio. Questo metodo per cucinare la patata può essere utilizzato in questo periodo anche per fare i nostri cari gnocchi. Ah, quindi certo. Importante non cuocerla effettivamente nell'acqua, ma un metodo così... sotto sale, oppure con un papillot, con questa... Che è sto papillot? Papillot, una volta. Lo dico perché non mi viene in italiano, perché ma che è la cucina italiana da del papillot? Grazie, vedi, Marta, cos'è, grazie. Cos'è? Il cartoccio. Cartoccio, la cucina veniva. Italiana. Ok, avete ragione. Te lo do io il papillot. Avete ragione. Grazie Maddalena Fossati. Viva la cucina italiana. Ciao, anche grazie. Senza papillot. Mangia come parli. Una breve pausa, ma rimanete con noi. Avremo come ospite uno dei campioni del mondo del 2006, Andrea Pirlo. Il maestro Andrea Pirlo, il professore. Mangia come parli. Mangia come parli. Eccoci tornati al meglio di Mangia come parli per festeggiare il 2020. Non so cosa ci sia di meglio, di più alto, di più importante che sentire Andrea Pirro. Non lo so, proprio non lo so. Mangia come parli. Tu mi hai fatto il regalo. Mi hai fatto il regalo di Natale, Capodanno. Penso al mio amico Piero. Ma è vero che c'è Andrea Pirro collegato? C'è assolutamente. Lui si produce vino, ama il cibo. Ciao Andrea, come stai? Buongiorno, bene, buongiorno a tutti. Hanno passato bene queste feste? Mi dici una cosa del tuo Natale, il ricordo? Tu hai vissuto tanti anni ovviamente anche lontano da casa, in giro, però hai un'immagine del Natale che ti sta particolarmente a cuore? No, fortunatamente sono uno molto tradizionale, quindi mi piace passarlo a casa, il Natale con la famiglia, con i miei genitori, con i miei fratelli, quindi è una cosa un po' tradizionale com'è. Penso piaccia a quasi tutti. A quasi tutti. E poi hai questa seconda passione della tua vita per il vino, immagino anche per il mangiar bene, no? Sì, sono produttore ormai quasi da 10 anni, c'è questa passione che è nata tramite un po' la mia famiglia e pian piano la stiamo portando avanti. È una bella cosa, simpatica, che mi fa molto piacere, poi abbinata anche al cinema, una cosa che fa sempre piacere. Scusami Pier, tu fai l'imprenditore naturalmente, però ti ho sentito parlare, insomma, degustare, ti ho visto degustare dei vini e fai anche quella parte un po' di ricettato, cioè i tuoi vini li produci solo come sponsor oppure metti una tua idea di gusto, di uve, di mix, di blend? No, prendo le mie decisioni anche il tipo di uvaggio, la consistenza e tutto, lo prendo insieme all'enologo perché deve essere un vino che mi appartenga, che abbia le mie caratteristiche, quindi un vino elegante, non troppo impegnativo, uno che si abbina a certi tipi di cibi, quindi sì, prendo le decisioni insieme all'enologo. Un grande vino è come un grande calciatore, lo riconosci subito, hai detto nella tua intervista, come fai a riconoscerlo? Un buon bianco o una bollicina? Io ho bevuto il Nitor, come si dice? Nitor. L'ho bevuto un mesetto fa, devo dire, mi è piaciuto molto. Credo sia un Trebbiano, no? Sì, un Trebbiano di Lugano, sì. Insomma, non male. Come li riconosci? E soprattutto, insomma, quanto l'aspetto proprio di farsi una cultura nel vino, al di là del piacere, immagino, della passione che avevi già da prima, insomma, quanto ti diverte andare a parlare con l'enologo, ad assaggiare, a seguire le varie fasi? Ma è più difficile vedere e scegliere un buon vino, soprattutto decidere quello è uno buono o meno buono. Ti faccio sicuramente riconoscere i giocatori bravi, li riconosci subito. Il vino buono dipende molto dai gusti, cioè uno gli piace più secco, uno più profumato, ci sono tanti tipi di vino, quindi è sicuramente più facile scegliere un giocatore e vederlo anche immediatamente. Stanno crescendo tanti giovani italiani molto bravi, da Tonali a Chiesa e a tanti altri, però forse Tonali è quello che mi ha impressionato di più in questo momento. Sai che tutti fanno il paragone con te, ovviamente ce ne vuole di bottiglie di Nitor da bere, ancora di pagnotte da mangiare ce ne sono, però insomma è un paragone che ti piace, che in qualche modo si faccia. Sì, no, mi piace, però non vedo così tante caratteristiche simili alle mie. È un ottimo giocatore, bravissimo, però io lo vedo un po' diverso, però speriamo che possa ancora crescere e fare meglio. Pirlo è uno dei brand più belli e più eleganti del calcio italiano nel mondo. E io quando sento Pirlo, io a volte ho qualcosa mi si stringe il cuore, perché pensa che vestiva anche il nero azzurro. Lo so. E l'abbiamo lasciato andare prima. Vabbè, adesso qua lo so. No, io queste decisioni. Questa idea di questo calcio a testa alta, di questa eleganza, anche se poi tu, io so che un aspetto di te che è stato poco sottolineato, scusate un momento adesso da tutti i convocati, ma un aspetto meraviglioso della tua carriera che è stato sottolineato meno di altri, è che poi tu anche dal punto di vista dinamico, del recuperare i palloni, del fare pressing sul possesso palla, cioè anche lì eri un grande giocatore. Questa cosa, ovviamente, occupandosi di cose diciamo più nobili come i lanci di 40 metri, forse è passata un po' sotto silenzio, o no? Ma sì, anche perché io alla fine della partita, guardando i dati, ero uno di quelli che correva più di tutti come chilometri di corsi. Certo, non erano scatti magari come quelli che fanno gli altri giocatori, era una corsa continua, però era da 13-14 km a partita, quindi era sì, una corsa lunga ma continua. Dammi un'idea, non so, di un piatto tuo bresciano, insomma. Vabbè, noi abbiamo lo spiedo qua da noi, che è un piatto famosissimo, lo spiedo con gli uccellini. Questo però sì, una cosa che mi fa impazzire sotto le feste è il cotecchino. Nostrano, nostro. Mamma mia, ragazzi. Che è un po' meno cotennoso, se si può dire, di rispetto ai nostri qui della campagna milanese, o rispetto a quelli cremonesi che io prendo. Però devo dire è molto buono, c'è un po' più di carne nel loro cotechino, se non sbaglio, no Andrea? Sì, sì. Per cui l'abbinamento... Esatto, e per cui l'abbinamento con qualcosa di dolce, o la mostarda, come facciamo noi, oppure qualcuno l'abbina anche, vabbè, la lenticchia, che secondo me è già un po'... È un po' agé come abbinamento, però fondamentalmente è un po' dolce. Agé. Allora come lo alterniamo? No, ma io farei con frutta, qualcosa di frutta, qualcosa di più fresco, magari anche una pera tagliata a cubetti, appena appena passata in padella con un po' di olio, okay, burro, qualcosa che un po' esalti di zucchero, il contrasto. Il contrasto è che dia freschezza, perché appunto, come diceva Andrea, il cotechino è uno di quei pezzi rari della cucina, della cultura italiana, che però devono essere presi un problema po'. Il problema, Garoldani, è che è buona pure la lenticchia. Pure la lenticchia è buona. Eh sì, però lenticchia, cotechino, dopo aver mangiato sono magari un primo, secondo me esageriamo. Dice pure che un porta po'. Soldi la lenticchia, dicono. Infatti, non è vero. Non è vero. Ne mangiare, continuo a mangiarle. Ogni fine anno ne mangio a chili e devo continuare a mangiare. Il problema è questo. Questo è un anno che si preannuncia per la nazionale, penso, pieno di speranze, no? Sì, è un anno importante, un anno, l'anno degli europei, giochiamo gran parte in Italia, quindi Sport Italia come sempre. E lo sarà per il cibo e per il vino anche. Vabbè, io vado a farmi subito un EOS o un Nitor, un EOS o un Nitor, vista la temperatura direi vado a fare un EOS, che mi sembra un pochino più sostanzioso, un po' più robusto. Grazie Andrea, complimenti per tutto quello che ci ha regalato, le emozioni e soprattutto per la passione, anche per il vino e anche per il cibo, che è parte della vita tua e di tutti noi. Mangia come parli. Abbiamo Alberto Simionato, andiamo a parlare un po' di dolci, perché devo dire ne stiamo mangiando un po' in questi giorni. Alberto, ciao, cioccolatier, pastry chef, direttore della Chocolate Academy di Milano. Che periodo è questo, Alberto? È un periodo nel quale la tradizione si mangia tutto, oppure in realtà invece è un periodo in cui la tradizione viene rivisitata? Insomma, è stimolante? Buongiorno a tutti, soprattutto agli ascoltatori e tutti voi. Ma allora, è un periodo molto intenso e sicuramente di grande lavoro per tutti gli addetti del settore, ma è anche un periodo di grande innovazione dal mio punto di vista. Per rivisitare, per rivisitare i grandi classici in maniere e in forme diverse. Una ricetta veloce, il panettone tuo ultimo pensato, se mai tu l'avessi fatto, con o senza cioccolato, o che tipologia di cioccolato all'interno? Allora, diciamo che noi abbiamo un forte, diciamo, domanda su quello che sono dei prodotti innovativi. Tra l'altro l'innovazione è un po' la nostra forza, perché il mondo del cioccolato è un mondo abbastanza statico, se vogliamo, da un po' di anni, e un po' con Ruby 2 anni fa. Stiamo facendo lo stesso esercizio con altri prodotti, ad esempio abbiamo lanciato sul mercato un cioccolato al latte con l'1% di zucchero e il 55% di cacao, quindi una sorta di mix fra cioccolato al latte e cioccolato fondente, e devo dire che sta avendo un grande riscontro, anche perché io credo che sempre di più l'artigiano ha bisogno di essere autentico, certo, e per vincere il mercato fondamentalmente. Eh sì, perché deve dare qualcosa di diverso, qualcosa quindi, in più, no? Per farci capire, ci sono 4 tipologie di cioccolato adesso sul mercato, giusto? Sì, noi abbiamo, diciamo che è stata riconosciuta la categoria Ruby, e questo è per noi una cosa molto importante, perché dopo tanti anni dalla scoperta del cioccolato bianco finalmente si è avuto un qualcosa di nuovo, un po'. Noi definiamo come la TV in bianco e nero e la TV a colori, no? Certo. Quindi si è riscoperto, ma soprattutto quello che dico sempre è, al di là di piace o non piace, che cos'è o che cosa non è, tutti sono diciamo che tutti hanno riposto l'attenzione sul cioccolato e tutti siamo tornati a parlare di cioccolato. Che cos'è il cioccolato? Alberto, dimmi, per far capire ai radioascoltatori, allora c'è un fondente classico, poi? C'è il cioccolato al latte, dove viene impiegata una parte di latte chiaramente in polvere per evitare l'acqua all'interno, e c'è il cioccolato bianco, che è composto da latte in polvere, zucchero e il burro di cacao, che è la parte grassa del cacao. Che gli permette di chiamare cioccolato il pezzo, giusto? Assolutamente, e poi pulita dice che il bianco non è cioccolato, ma c'è una legislazione che lo mette come cioccolato. Esatto. E poi c'è il cioccolato Ruby, che fondamentalmente è una quarta categoria, perché la massa di cacao impiegata per poterlo fare ha questo colore naturale rosa che deriva dalla fermentazione e dalla varietà del cacao che viene scelta. Quindi la caratteristica di questo cioccolato è un profumo un po' acido, fermentato, che è anche un po' il profumo che io adoro nei pani a fermentazione naturale. Uh-huh. E che si ritrova proprio per il processo di assolutamente, lievitazione. Assolutamente. Per cui confermiamo che quando tu trovi un cioccolato rosa di nome Ruby è un cioccolato naturale, non addizionato a delle puree di frutti rossi o di lamponi o di ribes o qualcosa del genere. No. Perfetto. Assolutamente, la fermentazione è una cosa magica. Pensiamo che più della metà dei prodotti che consumiamo è fermentata, e sappiamo tutti che cosa avviene nella fermentazione: il cambio, no? Il vino, lo yogurt, la salsa di soia, mille prodotti. Il cacao molto spesso non si sa che è un prodotto fermentato, ma anche il cacao è un prodotto fresco che viene, certo, fermentato. Esatto. Quanto c'è ancora secondo te da scoprire nel mondo dal punto di vista della materia prima? Devo dire, è bellissima, è una cosa che fa quasi scopritori, no? Fa quasi esploratore. Una cosa io di... credo personalmente che nel mondo del cioccolato, se pensiamo ad esempio al vino, siamo 120 anni più indietro, in senso anche forse positivo, perché si può creare tanto. Forse sul vino in certi aspetti siamo andati troppo avanti anche come tecnologia e innovazione, ma perché fondamentalmente io credo che nel cioccolato non sia mai dato un grande peso a livello economico, ecco. Quindi l'ultima... dal momento che il cioccolato prenderà una cosa più economica, allora si avrà maggior ricerca su quello che è la varietà, la genetica e la fermentazione. L'ultima curiosità, poi ti lasciamo tranquillo per le tue feste, un cioccolato pronto per la cottura è un cioccolato diverso da quello che si usano per mousse o per prodotti o per preparazione a pasticceria fredda? Sì, assolutamente, la parte di grasso è molto inferiore, perché durante la cottura dobbiamo preservare la forma della goccia, quindi si usa un cioccolato più magro e con una percentuale un po' più alta di zucchero, ma non necessariamente, certo, in modo tale che la cottura resista bene. Da escludere secondo me un po' il cioccolato al latte bianco, perché la parte di latte tende a bruciare. Mangia come parli. Ci sentiamo domani alle 20.30 per una nuova puntata del Meglio di Mangia come parli. A domani e ancora buon anno. Yeah.